Il punto di Stefano Folli. Di fronte ai pessimi dati OCSE relativi all'economia italiana è troppo facile dire o anche solo pensare che persino all'estero esistono i gufi. Invece è il momento del colpo d'ala. Renzi è stato accusato fin troppe volte di limitarsi agli annunci generici. Oggi, quando parlerà in Parlamento sui 1000 giorni delle riforme, ha la possibilità di essere molto più concreto, almeno su 2 punti che segneranno il cammino del governo e probabilmente decideranno il suo destino. Si tratta della riforma del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, e della contemporanea riforma della giustizia, o meglio della macchina giudiziaria oggi inefficiente. Entrambe servono ad aprire il mercato, a offrire nuove opportunità agli imprenditori, a chi ha voglia di fare, in particolare i giovani. Entrambe possono attirare l'attenzione e i capitali degli investitori stranieri. Ma occorre che il Premier sia preciso nel prendere impegni, che indichi date abbastanza certe, che offra l'immagine di un paese davvero in marcia. L'ennesima polemica sui gufi o altri animali a questo punto rischia di essere stucchevole.